5A. Ascolta e controlla. 1. Non so a che ora parte il treno. 2. Sappiamo la verità. 3. Sanno giocare bene a tennis. 4. Sai come si chiama il professore? 5. Va spesso in biblioteca. 6. Non vanno mai in discoteca. 7. Andiamo in vacanza ad agosto. 8. Dove andiamo a cena sabato? 9. Vengo qui a piedi. 10. Vieni con noi o resti qui? 11. Vengono qua in macchina. 12. Viene sempre in anticipo a lezione.